Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La campanella suona, gli vado incontro. Vedo e sento solo lui. Cominciamo. Diretto montante che schivo. Rispondo con un calcio alla coscia e un diretto al viso. I colpi sono potenti. Si susseguono come una tempesta di grandine, da una parte e dall'altra. La fatica inizia a farsi sentire. Finisce il primo round. Nessuno si è fatto male. Mi chiamo Diego, abito a Bergamo e la mia passione è la Thai box, la box thailandese. Mercoledì 11 aprile 2012, nel giorno in cui il supereroe più spietato sbarca nel cortile del Sole 24 Ore, nel giorno in cui una statua di Batman è misteriosamente apparsa di fronte alla mensa di Renzo Piano, non si capisce perché, sarà una delle cose del fuorisalone, immagino, no? È esattamente una delle cose del fuorisalone. Nel giorno in cui appunto ci si spaventa perché si vede un supereroe tutto nero, inginocchiato e sotto la pioggia, magnificamente sotto la pioggia, proprio nel cortile di questo luogo, si parla di spietatezza a Voi siete qui, e lo si fa grazie non solo a Batman ma grazie a Diego, che è una persona all'apparenza normale a sentirlo parlare al telefono, che ha questa passione per, come molti mi dicono in questo periodo, per la box thailandese e per queste arti marziali che stanno avendo davvero un grande successo in questo momento. Prima Tiziano mi diceva che addirittura qualcuno suppone sia legato alla crisi economica che travolge umanamente tutte le persone che hanno bisogno di scaricare della rabbia, e quindi appaiono queste robe tipo Krav Maga, oppure adesso ve ne leggo alcuni, che K1, che sono tutte arti marziali diverse. Muay Thai, cos'è? Muay Thai che è proprio la box thailandese, ma va per la maggiore questa roba che si chiama MMA, che sta per Mixed Martial Art, che è un insieme di arti marziali. Ma le chiediamo più tardi direttamente a Diego. Oggi si parla di spietatezza e della volta in cui, anche se non lo siete, perché essere spietati è veramente un moto dell'anima, ma anche se non lo siete, ci sarà stata una volta in cui siete stati totalmente spietati, anche solo con voi stessi. 349-238-6666. A questo proposito ne approfitto per girare a mio vantaggio questo discorso, perché continuano ad arrivare i racconti a Voi siete qui @radio24.it. A questo proposito, cercate di essere un pochettino più spietati proprio con voi stessi quando scrivete il racconto, per un motivo molto semplice, che arrivano, forse abbiamo allargato noi le maglie probabilmente, però arrivano moltissimi racconti che sono troppo lunghi e altri racconti che sono molto belli ma che hanno come qualcosa in più, qualcosa che secondo me, se lo rileggete due o tre volte e siete un briciolo spietati, riuscite a tagliare, non dico aggiungere o modificare, semplicemente tagliare. Mi ricordo una volta ho letto un'intervista a Gabriel García Márquez, quello, il premio Nobel, quello di Cent'anni di solitudine, che raccontava che appunto c'è una sola cosa che deve fare lo scrittore che vuole provare a fare lo scrittore o vuole scrivere qualcosa, ed è essere spietato, cioè leggere una cosa come se non fosse la sua e tagliare e riscrivere, al punto che lui racconta che un giorno, qualche anno fa, prende un treno per andare non so dove, in Colombia, e nella libreria della stazione acquista una copia di Cent'anni di solitudine, che è il suo libro, che probabilmente sarà stata la centesima ripubblicazione, e durante il viaggio lo ha riletto. Chiaramente solo l'autore può rileggere Cent'anni di solitudine in un viaggio in treno. Comunque lo rilegge e dice che aveva una penna in mano e aveva cancellato talmente tanta roba del suo testo, riletto 30 anni dopo, che quello che rimaneva era veramente pochissimo. Senza arrivare a questi livelli, se siete spietati o se siete mai stati spietati con voi stessi o con qualcun altro, anche solo in una semplice occasione, 349-238-6666. Qualcuno mi scriveva prima sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui, che era una donna, mi pare, diceva: sono stata spietata quando qualcuno mi ha detto io ti amo, e io gli ho risposto sono cazzi tuoi. Ecco, cose di questo genere, anche così spietati va bene, ok? 349-238-6666. Io non so se si debba essere spietati per fare uno sport come la Thai box. So che quello che è successo a Diego in questo racconto e durante questo incontro era esattamente il contrario. Io sono qui, lui è di fronte a me. Ci guardiamo dritti negli occhi. L'adrenalina è a mille, il pubblico è caldo ed è tutto attorno al ring. Lo guardo, non lo conosco, ma faccio di tutto per odiarlo. E un po' ci riesco. L'arbitro ci chiama in mezzo al ring per le ultime raccomandazioni. Ci guardiamo e vedo che anche lui mi guarda con rabbia. Meglio, mi piace perché mi carica. La quiete prima della tempesta. Il mio corpo è tutto un fascio di nervi e di muscoli tesi. La campanella suona, gli vado incontro e vedo e sento solo lui. Cominciamo, diretto, montante che schivo. Rispondo con un calcio alla coscia e un diretto al viso. I colpi sono potenti, si susseguono come una tempesta di grandine, da una parte e dall'altra. La fatica inizia a farsi sentire. Finisce il primo round, nessuno si è fatto male. La mia passione è la Thai box e questo mi dà la possibilità di confrontarmi anche con ragazzi molto più giovani di me, appunto perché è uno sport altamente pericoloso, diciamo. Mi sento bene, faccio fatica a stare fermo all'angolo, non voglio acqua, non voglio creme, non voglio perdere il momento magico. Se passo questo turno, vado direttamente in finale a Milano. Inizia il secondo round, io lo attacco. Lo presso con una serie di diretti e di gomitate al volto. Lo prendo, gli tiro una ginocchiata allo stomaco e una in faccia. Lui cade, fatica a respirare. Allo sguardo annebbiato, l'arbitro inizia a contare. Molto bene, sto vincendo. È quasi fatta. Poi, a un certo punto, in mezzo al rumore del pubblico, sento una vocina che grida «Dai papà, alzati!». Mi volto e vedo una bambina di circa 7 anni con le lacrime agli occhi che guarda il mio avversario. È molto carina, ha i capelli lunghi e lisci ed è più che altro arrabbiata. Gli urla che le aveva detto che era il papà più forte del mondo e invece non era così. Lo sgrida davanti a tutti. Poi si gira verso la madre, che mi sembra più spaventata che altro, e le chiede un supporto. Io guardo e capisco che è tutta colpa mia. Quindi stop, è finita. Quella bambina mi ha steso. Lo guardo, lui è lì. Si rialza, il suo viso è una maschera di dolore, ma l'arbitro ci fa ripartire lo stesso. Mi carica con una serie di calci bassi e un pugno al volto, poco tecnico e molto disperato. Io mi copro, ma la mia grinta è finita. Quella bambina e quella mamma hanno sciolto l'odio che avevo per lui. Eccolo che arriva. È un pugno, lo sento in pieno volto. Tutto si spegne in un momento. L'arbitro inizia a contare. 1. Tento di rialzarmi. 2. Il suo sguardo va da me alla bambina. 3. Lo guardo. 4. Guardo la bambina. 5. Penso a tutti gli sforzi fatti per arrivare. 6. Faccio un check-up del mio corpo, è tutto ok. 7. Il pubblico grida alzati. 8. Ci guardiamo. 9. Addio Milano. 10. Rimango giù. Essere messo a KO è un attimo, si vede tutto buio e quando ti accorgi che purtroppo sei a KO e l'arbitro ha già contato e l'incontro si gira. Anche se mancano pochi secondi, avresti tutta la voglia per volerti rialzare, ma il tuo corpo dice basta e non c'è niente da fare. Tutti i suoi tifosi esultano, la bambina grida di gioia insieme alla madre. Lui si avvicina e mi aiuta ad alzarmi. Io lo guardo, piange e mi ringrazia. Rispondo che voglio la rivincita. Lui mi sorride e poi va ad abbracciare la bambina. Lei urla di felicità e lo ricopre di baci. Io ho perso tutto e tutto sommato sono contento. Cruise control, babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. So I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Drive-by body pierce. Come tutte le categorie, anche gli esseri umani si possono dividere in diverse categorie. Ad esempio, chi è spietato e chi no. Leggendo il racconto di Diego ho pensato intanto che non credo che sarei capace di fare uno sport dove per vincere devi davvero fare del male a qualcuno. E poi che in fondo in una competizione, in qualsiasi campo della vita umana in cui ti trovi, ti può capitare di essere in una situazione simile. Ad esempio quando vuoi conquistare una ragazza, o un posto di lavoro, o quando vuoi ottenere un avanzamento professionale, o un parcheggio per strada, o un anticipo di qualche settimana per un'ecografia all'ospedale. Ci sono varie categorie di persone e di queste due sono gli antipodi. A un estremo ci sono quelli che lasciano fare al fato, quelli che si mettono in disparte, in attesa che il destino si compia. E all'altro estremo invece ci sono gli spietati, quelli che se hanno un obiettivo in mente nessuno li fermerà, fino a che non l'avranno raggiunto. Ecco, io, come la maggior parte delle persone immagino, credo di stare nel mezzo. Cioè, I fatalisti ho la sensazione che esagerino un po' e alla fine non combinano nulla. Cioè, non vorrei che quel loro affidarsi al destino fosse semplicemente un modo per non sporcarsi troppo le mani con le cose di tutti i giorni, no? Con la fatica di lavorare per raggiungere uno scopo, ad esempio. Gli spietati però esagerano anche dall'altra parte. E magari sì, quel risultato lo raggiungono, però a quale prezzo? Ad esempio farsi odiare. Oppure, se va molto bene, magari non avere amici. Di certo però sono persone che si fanno riconoscere. Voi, per esempio, dovunque siate, adesso, ne avete sicuramente qualcuno intorno. Qualcuno che farebbe di tutto per ottenere quel risultato, per vincere quella battaglia legale, per accaparrarsi un cliente, per fare bella figura col capo, o per avere una classe migliore per sua figlia. Il pietoso invece è quello che gli farà strada, probabilmente, quello che quando sente l'insistenza molla il colpo, lascia stare, non va fino in fondo, cede prima, cioè magari combatte un po', per poi davanti allo spietato non ha la forza e il coraggio e lascia perdere. Ad esempio, ora voi sono le 16:19 di un mercoledì qualunque. Siete in tanti posti diversi, no? Mentre ascoltate la radio. Siete in macchina, probabilmente, o siete in ufficio, o siete a casa. Dovunque siate, avete sicuramente a portata di mano o di sguardo qualche spietato. E se anche non l'avete mai fatto, potreste provare a riconoscerlo, perché ci sono alcune caratteristiche comuni che gli spietati hanno. Dunque, innanzitutto gli spietati, per fare un esempio, non ridono da soli, solo quando sono in compagnia. Quindi, se trovate qualcuno che sorride perché, che ne so, perché ha sentito qualcosa di divertente alla radio, ad esempio, ecco, quello non è uno spietato. Lo spietato, ad esempio, si rivolgerà a voi sempre parlando per primo, per prendere il controllo della situazione. A meno che voi non contiate nulla per lui e allora non sarete nemmeno nel suo raggio di interesse. Se l'avete come collega o come superiore, sapete bene che sarà lui a presentare i risultati migliori e a defilarsi quando ci saranno i problemi. Ma non scomparirà silenziosamente. Lo farà indicando il colpevole. Perché anche nelle avversità, lo spietato sa sempre trovare qualcosa di positivo. E se ci sono dei problemi in un gruppo, lui saprà dare un nome al colpevole e lo farà con tale sicurezza che sarà difficile contraddirlo. Guardatevi in giro. Io non sono lambrosiano, quindi non credo che il volto mostri dei tratti della personalità delle persone. Ma ci sono alcuni elementi indescrivibili che vi segnalano chi è spietato e chi no. Che indicano se uno è pronto a non avere pietà invece di essere buono. Invece di essere uno che si lascia commuovere dal pianto di una bambina, ad esempio, smetterà di combattere con suo padre sul ring e lo farà vincere. Lo spietato non lo ascolterebbe nemmeno il pianto di quella bambina. Lo spietato non ha orecchie. È un po' il suo trucco, no? Essere chiuso agli stimoli esterni, perché possono portare solo complicazioni. Io ne conosco, voi ne conoscete. E devo capire se è meglio imparare a diventarlo almeno un po' spietato, anche io, oppure lasciare che loro vivano la loro vita, sperando che alla fine i conti tornino, no? E che essere una persona decente abbia un senso e almeno un po' ti faccia stare meglio. Vivere così senza pietà, senza chiedersi perché, come il falco e la rugiada e non dubitare. Roberto, quando ho capito che non svolgevo più il mio lavoro con passione, mi sono licenziato. Spietato o forse incosciente. Lui, non sapevo come fare per lasciare la fidanzata, allora mi sono inventato che mi tradiva e gliel'ho detto. Lei piangendo mi supplicava, io me ne sono andato. No, lui, aspetta un attimo, però questa è codardia, non essere spietato. Cioè, questa è inventarti una cazzata per sfuggire alle tue responsabilità. Così non vale, questa non vale, quindi la declassiamo. Attenzione, l'MMA è la parente povera dell'UFC, Ultimate Fighter. Troppo tecnico il messaggio? Mi sa di sì. Luigi, allora facciamo così, lo chiedo direttamente a Diego, che sicuramente ne sa più di me. Pronto, Diego? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo, benissimo. Sei ammaccato? Cioè, io ti immagino, no. Diego, ovviamente io pensando a te, ti immagino pieno di lividi in faccia, con dei muscoli tesissimi, a fare un lavoro in realtà quieto, un lavoro che non c'entra niente con la box thailandese. E hai indovinato. Mi puoi dire cosa fai nella vita? Sono un panettiere. Sei un panettiere, quindi, ma scusami, quindi in questo momento sei sveglio? Non, i panettieri non dormono di pomeriggio? Oggi no. Mazza, detto così mi fai quasi paura, tipo ti stai preparando per un combattimento. No, beh, adesso no, non combatto più perché ormai sono arrivato a un'età dove bisogna lasciare spazio ai giovani. Quanti anni hai, Diego? 38. Hai 38 anni, fino a quando hai combattuto? Ma fino a 4 anni fa ho combattuto. E facevi box thailandese, Thai box? Box thailandese. E quali sono le regole? Guarda, mi piacerebbe tantissimo che tu mi dicessi l'unica regola della box thailandese è che non ci sono regole. Destini l'unica incrociati. Diego regola. Incontra la box thailandese. La box thailandese. No, dimmi, scusami, faccio prendere un attimo. Non devo più ascoltare destini incrociati prima, ragazzi. Me lo togliete. Diego, torniamo a noi. Qual è la regola della box thailandese? Vabbè, l'unica regola fondamentale della box thailandese è non colpire alle spalle l'avversario non volontariamente. Poi per il resto vale tutto. Ma vale tutto tranne... vuol dire calci in faccia? Sì, calci in faccia è l'ordine del giorno, ok. Ma... calci, ginocchia, gomiti, pugni, vabbè, tip. Scusami? Tip sono i frontal kick, sono calci frontali. Ma testate appunto... anche? No, testate. Oh, no. Abbiamo trovato una roba che non si può fare. Testate solo alla barona. Oh, ti do la testata, zio. Quindi, scusami. Tu, alla fine di un incontro di Thai box, sei messo. Cioè, ci avrai dei punti, cioè, ci avrai il naso rotto, delle cose brutte, no? Ma no, generalmente no. Si cerca sempre di stare attenti, di riuscire a coprirsi, di mettersi in una posizione tale dove non si ricevano colpi. Pericolosi, anche perché una gomitata in pieno volto può causare veramente danni bestiali, del tipo spregiature o comunque rotture varie. Senti Diego, allora veniamo a noi. Tu fai il panettiere da quanto? Ma da sempre. Da sempre. Allora, ecco, la domanda per cui tu immagino sia preparato è: perché un uomo tranquillo e pacifico, come viene fuori dalla tua vita, dalla tua voce, che vive a Bergamo, hai una famiglia? Sì, ho una famiglia, due bambini. Che ha una famiglia, ha due bambini, hai un tuo negozio di panettiere? Sì. Quindi sì. Immagino che arrivino le signore, buongiorno Diego, mi dà 2 etti di pane. Cioè, una persona per bene e serena. Cosa lo porta a salire su un ring e a dare gomitate in faccia a quello che ha di fronte? Ma fondamentalmente il 90% delle persone che praticano questi sport, che continuano, non sono persone violente al di fuori del ring. E va bene, questo è un po' un luogo comune però, nel senso che ci deve essere, cioè nel senso che quando tu dici, e mi colpisce questa cosa, io anche se non lo conosco devo odiarlo, no? Vabbè, può essere eufemistico o un po' retorico, però la questione è, tu ti porti dietro tipo una sacca di rabbia da cui vai a pescare, perché altrimenti non riesco a immaginare come su un ring uno voglia picchiare una persona per vincere, no? Ma è sopravvivenza, perché comunque o picchi o vieni picchiato, e siccome non piace a nessuno essere picchiati, si cerca sempre di trovare una motivazione tale per poter odiare una persona. Ho capito. Se non la si conosce. Cioè, quindi probabilmente io sicuramente sarei in questa condizione, cioè piglierei un sacco di pugni, all'inizio direi, oh ma questo ce l'ha con me, allora magari lì mi viene fuori un po' di roba, altrimenti... C'è un mentalist coach iniziale... prima di ogni cioè incontro, che ti fa incazzare, cioè che fa di tutto per far incazzare, sì, che cerca sempre di motivarsi in maniera tale che ma lo si fa sia nel professionismo che a livelli dilettantistici. Un po' come i master che fanno qui al Sole 24 Ore, dove sembrano delle robe in cui li convincono di essere i migliori, una roba del genere. Beh sì, fondamentalmente la base è quella. Senti Diego, l'ultima roba e poi ti saluto, perché qualcuno non crede totalmente al tuo racconto. Dimmi quanto c'è di vero e quanto no. 90% di vero, anche perché me lo ricordo come fosse ieri e mi sto ancora sentendo quello che mi dicono gli amici e soprattutto il mio allenatore. Diego, ti ringrazio moltissimo per la chiacchiera e per il racconto. In bocca al lupo per tutto. buona giornata, ciao. Ciao, grazie, buona giornata. È ritornato l'SMSista di Zocca. Giampaolo scrive: sarò spietato, non ti darò tregua. Zocca c'è e Matteo ci sarà. Adesso la borsa è quasi terrorizzato. Dopo voi siete qui. Voi siete qui. È su una spiaggia, Diego, nella foto che ci ha mandato. Ha un completino blu con dei pantaloncini e una canottierina, un cappellino bianco in testa, il mare dietro di lui. Sta camminando probabilmente fuori dall'acqua, uscendo dall'acqua. E ha decisamente il fisico di uno con cui non hai voglia di litigare, però ha effettivamente la faccia di una persona buona. Qualsiasi cosa significhi il fatto di avere una faccia della persona buona, però insomma, appunto, uno così non vuoi avercelo contro, però riesco veramente ad immaginarmelo a fatica picchiare qualcuno. Tant'è, la fotografia la trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, ma da oggi Margherita Ina, diciamo la redattrice più twitterata di Radio 24, la carica anche sul profilo Twitter del programma, che è Voi Siete Qui Radio 24, giusto? No, c'è un vabbè, è VSQR24, comunque cercate e lo trovate, c'è un hashtag che è sempre Voi Siete Qui. È stata caricata in questo momento? Madonna, siamo veramente... Il live twittering a noi ci fa... No, lo facciamo il live twittering, volevo dire 349-238-6666. A proposito di questa roba della rabbia e dell'essere cattivi o non esserlo, Dito da Crema mi scrive: Matteo, non è come dici tu, cioè mai nessuno ha litigato su un ring. Oddio, io qualcuno che staccava le orecchie a morsi a qualcun altro sul ring l'ho visto, Vito, cioè l'ho visto in televisione. Comunque, durante un incontro di pugilato quasi sempre si va a mangiare la pizza insieme dopo, con l'avversario. Sono un ex pugile e ora quasi un maestro. E poi mi dice quali sono i tre colpi di KO. I tre colpi di KO sono pugno al mento, pugno alla bocca dello stomaco e micidiale pugno al fegato, che solo pochi ci riescono. Non so cosa voglia dire che solo pochi ci riescono, perché non hai il tempo per farlo, perché immagino sia una sequenza complicata da fare, non lo so. Chiaramente questa puntata è parental advisor, per cui tutti i bambini sotto i 18 anni, sotto i 14 anni, questa puntata, vai, ma questa tanto si è registrati oggi, quindi la tagliamo, no? Come questa la tagliamo poi, ok. 349-238-6666, il judo è l'arte marziale migliore. Tutti cadono a terra e lì, nella lotta a terra, non c'è come il judo. Ho capito, però aspetta, Samuel, mi devi dire qualcosa di più. Cioè, perché se mi dici che il judo è la roba migliore perché si finisce a terra, e quando si finisce a terra non ce n'è come il judo, ci giriamo intorno. A proposito di essere spietati, invece, Antonello, ho mandato un mazzo di fiori ad Anna, non ci dice che è Anna, e c'era un biglietto che diceva: spero che soffrirai per tutta la vita. Però, Antonello, io ho paura che Anna, questo mazzo di fiori, abbia buttato via il bigliettino e si sia tenuto al mazzo di fiori, o che peggio, abbia regalato il mazzo di fiori a qualcun altro. E poi ancora Andrea mi scrive: hai spiegato molto bene il significato di spietato, per me però hai solo dimenticato una cosa, che lo spietato non è mai onesto. E ne credo di no, invece credo che ci sia la possibilità di essere spietati e di essere onesti, e alcuni sostengono che paghi e altri di meno. Quando abbiamo letto questo racconto ci è venuto in mente a me, Tiziano, anche a Margherita, mi sa, ormai pensiamo come un sol uomo, un sol cervello, un pezzo di un film straordinario che si chiama Apocalypse Now, in cui c'è proprio una figura che è una figura tratta da, perché tutto il film è tratto da Cuore di Tenebra di Conrad, ma quella in particolare, cioè la figura di Kurtz, che è rappresentata magnificamente da Marlon Brando. Oh, mi stanno venendo tutti i nomi, ragazzi, magnificamente interpretata, adesso non mi ricordo qualcosa, l'altro, Martin Sheen si chiama l'altro, tutti oggi ce li ho tutti. Marlon Brando fa un monologo, è un monologo, è quello famoso, quello con le luci di Vittorio Storaro, me li ricordo tutti oggi i nomi, è in cui è in ombra ed esce alla luce, si tocca, è una roba meravigliosa, e parla dell'orrore, e di fatto parla della spietatezza, cioè racconta a Martin Sheen che nella vita, per vincere le guerre, per riuscire nella vita, bisogna essere spietati, bisogna avere, lui dice, avere un senso morale, ma essere capaci di uccidere. Questo monologo è un monologo che è meraviglioso, ma che è anche rischioso da certi punti di vista, e quindi la cosa che rimane in testa, immagino che la cosa che Coppola volesse fare raccontando questo monologo, era domandarsi, magari non rispondere, ma domandarsi: si può essere degli uomini, si può rimanere degli uomini ed essere spietati? I've seen horror, powers that you've seen. You have a right to kill me. Io ho visto degli orrori, orrori che avete visto anche voi, ma non avete il diritto di chiamarmi assassino. Avete il diritto di uccidermi, questo sì, avete il diritto di farlo, ma non avete il diritto di giudicarmi. Non esistono parole per descrivere a coloro che non sanno che cosa significhi l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna essere amici dell'orrore. L'orrore e il terrore morale ci sono amici, in caso contrario allora diventano nemici da temere. Sono dei veri nemici. Ricordo quando ero nelle forze speciali. Sembra siano passati mille secoli. Siamo andati in un accampamento per vaccinare dei bambini. Andati via dal campo, dopo averli vaccinati, un vecchio in lacrime ci raggiunge correndo. Non riusciva a parlare. Allora tornammo al campo. Quegli uomini erano tornati e avevano mutilato ai bambini il braccio vaccinato. Ricordo che ho pianto come una povera nonna. Avrei voluto cavarmi tutti i denti. Non sapevo nemmeno io cosa volevo fare. Ma voglio ricordarmelo, non voglio dimenticarlo mai. Non voglio dimenticarlo mai. E poi a un certo punto ho capito. Come se mi avessero sparato un diamante. Come se un diamante mi si fosse conficcato nella fronte. E mi sono detto che genio c'era in quell'atto. La volontà di compiere quel gesto. Perfetto. Genuino, cristallino, puro. Allora ho realizzato che loro erano più forti di noi, perché riuscivano a sopportarlo. Non erano mostri, erano uomini. Questi uomini avevano un cuore, avevano una famiglia, avevano bambini, erano colmi d'amore, ma avevano avuto la forza di farlo. Avessi avuto 10 divisioni di uomini così, i nostri problemi sarebbero finiti da tempo. C'è bisogno di uomini con un senso morale e allo stesso tempo capaci di utilizzare il loro primordiale istinto di uccidere, senza sentimenti, senza passione, senza giudizio. Perché è il giudizio che ci indebolisce. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through. Sergio mi chiede perché parlo male della Barona. Io non parlo male della Barona, semplicemente ho visto una volta un film ambientato lì in cui c'era uno che diceva: oh zio, ti do una testata. E allora me la immaginavo così, ma perché ho scarsissima fantasia. E poi Riccardo mi dice: temi l'ira del Mansueto, il buono arrabbiato è una calamità. Guarda Riccardo, io questa tecnica l'ho utilizzata più di una volta, tipo ma a me non mi avevi mai visto arrabbiato. Non è vera, non funziona. Grazie a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Diego e parlava di spietatezza. Quella di domani è la storia di Matteo e parla di fare le cose religiosamente. Tutto questo però ovviamente ha un prezzo. Un prezzo molto alto. Innanzitutto ogni giorno si riparte da zero. Ogni giorno bisogna vincere la pigrizia che con l'avvicinarsi dell'allenamento si presenta sempre e comunque. Lì, a tentarti e a domandarti: ma perché non te ne stai a casa con sta pioggia? We'll be right back.